Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Buongiorno a tutti e buone feste da Federico Taddia. Ben ritrovati ai Padri Eterni in questa versione speciale per le feste natalizie. Insieme a Matteo Bussola abbiamo deciso di riproporvi alcune delle storie più belle che abbiamo raccontato in questi mesi. Il nostro è un programma che parla di padri, di genitori, ma anche di figli. La storia che vogliamo farvi riascoltare oggi è quella di Vania Zoppè, una boscaiola del Cansiglio che sta rimboschendo la zona distrutta dalla tempesta del 2018. Il suo lavoro e tutto ciò che sta facendo per risanare quella zona sono spinti anche da una passione tramandata da suo papà e da suo nonno. Padri Eterni. Lei si chiama Vania Zoppè, ha 39 anni, è l'unica boscaiola di tutte le Dolomiti e questo lavoro lo faceva suo nonno, questo lavoro lo faceva il suo papà e lei ha scelto di proseguire appunto questa attività. Ciao Vania, benvenuta ai Padri Eterni. Ciao. Ciao Vania. Ma tu lo ricordi ancora il momento in cui hai scelto, hai deciso di fare la boscaiola? Diciamo che è stata spontanea la decisione perché essendo cresciuta in mezzo ai boschi, stando sempre a contatto con la natura, con i miei genitori, così poi ho finito la scuola media e a 14 anni, tra finito la scuola, a 15 ho iniziato proprio questa professione con i miei genitori. Ma già papà ti portava nei boschi quando faceva il suo lavoro? Sì. I miei lavoravano, mia mamma quando finiva scuola veniva a scuola a prenderci, io e mio fratello, e si andava su nel bosco. Eravamo ragazzini, si faceva i compiti sopra le ceppaie e poi praticamente 11-12 anni così si iniziava già a fare qualcosa e a 12 mi ricordo che sono salita sul trattore, non arrivavo neanche sui pedali e a 14 senza che i miei genitori si accorgessero che erano usciti perché mia mamma è andata a fare delle commissioni, mio papà a consegnare la legna. Ho detto, adesso provo con la motosega perché i miei non volevano e io invece volevo, ero testarda e volevo iniziare a fare qualcosa di più, insomma. Ma quindi hai cominciato prestissimo, Vania. Ma guarda, sì. In base al luogo comune, no, verrebbe da pensare che il lavoro di boscaiolo non sia tanto un lavoro per donne. Cosa ti sentiresti di rispondere a chi afferma questo? Ma sinceramente sono tanti che mi dicono non è un lavoro da donna, ma a me è sempre stata una cosa naturale, molto probabilmente perché ho avuto mia mamma che lei davanti, sì che è stata molto naturale la cosa. Secondo me se il lavoro piace hai un po' anche fisico perché devi avere abbastanza forza e nervo, lo fa anche una donna insomma. Perché certo che alla sera non si va a ballare, no, facendo così. Immagino anche l'orgoglio comunque di tuo padre, no? Sì. Insomma, nel vedere la figlia e i figli proseguire questo lavoro. Per te invece questo anno cosa ha rappresentato da quel 29 ottobre, dove anche per voi, no, è cambiato, se non tutto, tanto? Ricordo benissimo quel giorno perché praticamente noi eravamo nella foresta del Cansiglio per concludere un lavoro, lì avevo tutti i macchinari e quei giorni si sentiva molto parlare appunto di questo vento, di stare attenti, di non uscire. Ricordo che un giorno prima eravamo andati su per vedere i macchinari e non eravamo neanche arrivati perché erano cadute delle piante vicino ai macchinari. Però siamo andati giù a piedi col buio e erano a posto. Poi quella mattina siamo andati su e si iniziava a vedere delle piante tranciate, alberi ovunque. Era una cosa, cioè, non credevo quello che vedevo. Vania, senti, ma secondo te, lo chiedo proprio alla boscaiola, no? Alla persona che ha vissuto il bosco fin da piccola, secondo te noi abbiamo delle responsabilità in quanto è successo o si è trattato solo di un evento naturale? Ma non so neanche rispondere a questo, ma non penso insomma a una responsabilità. I tagli vengono sempre fatti, almeno io parlo per quello che vedo nella mia zona. I boschi vengono curati sicuramente non come una volta, probabilmente una volta c'erano molti più boscaioli di adesso. Adesso è un lavoro che non è più come una volta che viene fatto. Dopo, come responsabilità, non saprei dare una risposta. Vania, grazie davvero per la tua testimonianza. Ma quando vedi i tuoi figli con una motosega in mano, cosa pensi? Si allontana. Direi che questo sorriso, questa risata è già una risposta. Lei era Vania Zoppè, unica donna boscaiola delle Dolomiti, che sta facendo tantissimo per il suo territorio. Ma continuiamo a parlare di clima, di fatto. Lo facciamo con Stefano Untertiner, un fotografo che ha deciso di documentare il cambiamento climatico e lo scioglimento dei ghiacciai in tempo reale. Per farlo si è trasferito alle isole Svalbard insieme a tutta la famiglia e ci ha raccontato la sua esperienza. Padri Eterni. Ciao Stefano, benvenuto. Ciao. Allora Stefano, intanto collocati, dove sei? Allora, noi siamo nella piccola cittadina di Longyearbyen, che è l'abitato più popoloso delle isole Svalbard. Abbiamo un piccolo appartamentino qua che ci fa da base per esplorare un po' questo arcipelago, per raccontare, come introducevi tu, il cambiamento climatico, ma anche la natura che è minacciata dal cambiamento climatico. E quindi è una grossa missione che ci siamo messi come obiettivo e che abbiamo iniziato da ormai un mesetto. Ok, Stefano, una domanda, ma ai tuoi figli tutto ciò lo hai detto prima, durante o dopo, una volta arrivati? Come gliel'hai comunicato? Ma guarda, siamo già venuti qua lo scorso anno, nel 2018, per 2 mesi per fare una sorta di scouting trip, per capire se appunto il progetto poteva decollare, se questa vita possibile alle Svalbard piaceva a tutti quanti, perché io erano anni che immaginavo di venire su, ma volevo sapere appunto per i miei bambini se era altrettanto affascinante, per mia moglie, e quindi abbiamo, come dire, già testato come poteva essere questo progetto anche per l'intera famiglia. E poi, quando abbiamo preparato il viaggio, abbiamo continuato a parlare ai bambini di questo prossimo grande progetto, di questa nostra decisione, quindi erano super pronti ad affrontare questa nuova avventura. Poi sono nati in viaggio, abbiamo sempre viaggiato con loro, quindi non era nulla di nuovo rispetto a quello che abbiamo sempre fatto. Stefano, senti, quando hai deciso di tuffarvi in questa straordinaria avventura, hai ragionato più da fotografo o più da padre? Nel senso che io in questa decisione leggo anche una legittima preoccupazione di un padre per il futuro dei propri figli. Guarda, sei arrivato veramente al punto, al nocciolo della questione, perché naturalmente come fotografo, come divulgatore, avevo un grandissimo interesse di venire su queste isole e di tuffarmi in questa nuova sfida. Però c'era anche la grande incognita dei nostri bambini, Bayer e Mi, di 2 e 6 anni, che avrebbero dovuto iniziare una loro sfida tutta nuova, il primo anno di asilo e il primo anno di scuola rispettivamente. E quindi per noi era quella l'incognita, anche appunto, come dici tu, parlo anche a nome di mia moglie, come genitori, di capire come avrebbero affrontato loro questo nuovo grande progetto. E quello, dico la verità, abbiamo dovuto venire qui, provare, capire se abbiamo fatto una scelta giusta o sbagliata. La scuola per Remi è iniziata il 20, il 21 l'asilo di Bahia. Devo dire la verità che sono entrambi entusiasti, quindi come genitori, come padre, sono rassicurato, perché Remi, quando chiedo, appunto, dicevi prima la fatidica domanda, come è andata la scuola, ti piace la scuola, lui usa superlativi, quindi super contento, anche perché il modello scolastico norvegese è veramente un po' fuori dagli schemi italiani, diciamo così. Stefano, infatti stai prendendo appunti dagli altri padri, cioè, li stai osservando, sei lì, ok, per osservare il cambiamento climatico, ma il tuo sguardo fotografico, senza per questo dover scattare foto, lo stai mirando anche agli altri padri, per vedere come sono i padri lì. Ma guarda, questa è una piccola società, però è estremamente variegata e varia anche da un punto di vista sociale, perché tu pensa che quasi il 50% della popolazione di Longyearbyen viene da altri posti che non la Norvegia. Sono rappresentate, mi pare, circa 52 nazionalità su 2200 persone, quindi anche da un punto di vista sociale estremamente interessante. Quindi di modelli di padri veramente ne ho da scegliere, da osservare. Ti faccio un esempio, c'è una bella comunità di asiatici, in particolare thailandesi e filippini, tanto per farti capire, e quindi il rapporto tra padre e figlio è completamente diverso rispetto a quello che può essere il modello europeo o quello norvegese, che appunto è comunque il predominante. Però vedo che comunque per quello che riguarda appunto il rapporto padre norvegese figlio è molto diverso rispetto all'italiano. Sono uscito poco, domenica scorsa sul campo con una famiglia di cacciatori, di renne, e questi bambini veramente sembravano dei piccoli selvaggi, lasciati rispetto appunto allo sguardo di un padre italiano, lasciati un po' vagabondare quasi a torso nudo, arrampicandosi in posti che noi avremmo trovato pericoloso. Quindi c'è un altro sguardo, ecco, nei confronti dei figli, forse un po' meno apprensivo. Stefano, ma dal punto di vista dei tuoi figli, che adesso forse sono ancora un po' piccolini, ma c'è secondo te la consapevolezza dell'importanza di quello che il loro papà sta facendo? Insomma, tu sei lì di fatto a testimoniare con le tue immagini, no, i cambiamenti climatici in corso. La coscienza ecologica di cui tanto si parla è più facile trasmetterla con i comportamenti? Ma guarda, io penso sempre che l'esempio, il trasmettere sia sempre dato soprattutto dall'esempio, perché le parole sono meno efficaci che un buon esempio. Quindi io spero che resti loro qualcosa e spero soprattutto capiscano che è importante quello che facciamo, quello che proviamo a fare, che non è altro che un contributo che vogliamo dare come famiglia, come individui alla discussione sul cambiamento climatico senza stravolgere o fare chissà che cosa, però che lo facciamo anche per loro, ecco. Spero che Stefano. capiscano che questo che facciamo è anche per loro, che sono le generazioni future, e che si rendano conto magari un domani dell'importanza di questi giorni, questi mesi, di questi anni. Questo era il racconto di Stefano Unterthinner e ora ci fermiamo. Le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Eccoci qua sempre su Radio 24 con una puntata speciale dei Padri Eterni. Stiamo rivivendo le storie più belle di questa stagione. Adesso riascolteremo la nostra intervista a Lisa De Cecco, una navigatrice rally che ha corso per la prima volta con il suo papà. Padri Eterni. Andiamo a fare un rally e lo facciamo con Elisa De Cecco, classe 2000, quindi 19 anni, un sogno nel cassetto, quello di guidare, quello di diventare pilota, anche perché comunque è figlia d'arte. E in questo suo essere figlia d'arte, poche settimane fa ha realizzato quello che appunto forse non era un sogno, no? Però sai che la vita poi Ti prende offre delle traiettorie. opportunità. Assolutamente, ed è stata quella di fare da navigatrice al padre. È tosta. Insieme hanno partecipato a un rally, papà guidava e lei era lì al suo fianco a dare le indicazioni. Un'esperienza, credo, indimenticabile. Ciao Lisa, benvenuta ai Padri Ciao, Eterni. buongiorno. Ciao Lisa. Tanto, Ciao. com'è stato papà? Cioè, com'è avere papà al fianco che deve seguire le indicazioni della navigatrice, in questo caso la figlia? Ti ascoltava? Sì, dai, mi ha ascoltato sempre, anche quando l'ho rimproverato, quindi Che è una cosa un po' strana, no? Perché di solito ma ti ha ascoltato sempre, sempre, Lisa, no? Perché il compito Sì, del navigatore sempre, è sempre, cioè non è che c'è stato qualche momento in cui ha fatto di testa sua ignorando le tue indicazioni, si è affidato del tutto. ma diciamo che in quello sport lì, sulle decisioni sulla macchina, diciamo che prevale l'idea del del pilota, quindi ho lasciato scegliere a lui da quel punto. Però sulle cose che riguardano me mi ha sempre ascoltato, mi ha sempre secondato, quindi è stato bravo da quel lato lì. A Claudio De Cecco, papà, insomma, è un nome molto noto nell'ambito del rally. E, tu sarai stato in auto con tuo papà un milione di volte, no? Però questa volta era la prima durante una gara. E, cosa provavi? Cioè, nel senso, di fianco a te in quegli attimi avevi un pilota o avevi papà? Ma metà e metà, diciamo, perché comunque quando si è in macchina è fondamentale il rapporto pilota-navigatore, quindi che sia un genitore, che sia un amico, bisogna entrare nell'ambito tra virgolette professionale e dimenticare appunto quello che c'è fuori per raggiungere un obiettivo comune, quindi è un po' un pilota, dai. Sì, ecco, dicevi prima tu stessa, no, che nell'idea del rally contemporaneo, come dire, prevale decisamente il ruolo del pilota, quindi alla fine quando sei in macchina insieme, no, devi affidare letteralmente, potremmo dire, la tua vita su questi percorsi così tortuosi, così difficili. Il fatto di affidarla a tuo padre in questo caso è stato meglio, peggio o assolutamente non ha fatto differenza? Beh, diciamo che appunto io ho avuto un'esperienza purtroppo che mi ha segnato tanto, che è stato appunto un incidente quest'anno ad un rally, e lì purtroppo, indipendentemente da che persona sia, che sia un amico, che sia appunto mio padre, all'inizio è stato un po' difficile perché la fiducia deve arrivare piano piano. Certo. Quindi alla fine della fiera comunque era mio papà e aveva tanta esperienza, quindi mi sono fidata un po' prima rispetto agli altri. Però in campana, dici tu sempre comunque. Sì, assolutamente. Lo storico navigatore di papà appunto quel giorno era impegnato, quindi tu l'hai sostituito. Potrà ripetersi la cosa? È un'esperienza che vi è piaciuta? Sì, potrebbe succedere, sì. Non è da escludere. Ma secondo te potrà succedere anche a ruoli invertiti? Alla guida? No, assolutamente no. No, perché dici? Perché meglio di no, non me la sento di cambiare ruolo, appunto, preferisco stare a destra. Brava, vedi? La rapidità della risposta è stata fulminea. Secondo me ci aveva già pensato, esatto. Questa era Lisa De Cecco, la navigatrice che ha corso un rally insieme a suo padre, una storia molto rock fatta di gare, macchine, corse. Adesso invece vogliamo riproporvi un'altra storia molto significativa anche questa, benché sia più triste. Una giovane ragazza che dopo la morte del padre ha deciso di diventare titolare dell'azienda di famiglia, una falegnameria. Padri Eterni. Father, son. Love to one in this empty room, spine against spine, yours against mine, till the warmth comes through. Remember down by the waves, I first found my courage, knowing Daddy could save. I could hold back the tide. A 21 anni i sogni si infrangono o si realizzano. Per presentare il primo ospite di questa puntata utilizzo proprio l'Incipit, scritto da Vittorio Zambaldo, che è un collega dell'Arena di Verona, che ha raccontato questa storia. Direbbe la storia sembra quasi offensiva, una storia sicuramente intensa, una storia vera, una storia di tenacia. Lei si chiama Maria, ha 21 anni e per tenere vivo il sogno di papà, che poi è anche il suo sogno, ha scelto di continuare il lavoro di papà, che era falegname. Ciao Maria, benvenuta ai Padri Eterni. Ciao Maria. Ciao, ciao. Grazie a te. Maria, è una storia particolare, una storia anche triste, ma anche una storia di vita. È una storia che inizia con te insofferente sui banchi di scuola, vero? All'origine è proprio quella. Cioè non ci stavi su quel banco? No, non potevo proprio farcela. Non era proprio la mia strada. Però lì per la prima volta papà forse ti ha spiazzato. Eh sì, papà ha visto lungo, ci ha visto lungo. Cosa ti ha detto? Mi ricordo che quel periodo stavo veramente male, alla mattina soprattutto, anche soprattutto fisicamente, e mi ricordo che una mattina che sono riuscita a chiudermi in camera per non uscire, a pranzo, orario di pranzo, eravamo tutti a tavola, a un certo punto mi ha guardato e mi ha detto: comunque se è davvero così che non vuoi andare più a scuola, devi trovarti da lavorare oppure venire da me. E allora lì io mi sono sciolta. Perché era quello che speravi? Eh sì, che volesse magari insegnarmi o comunque starmi dietro, spiegarmi le cose. Maria, adesso tuo padre non c'è più e tu hai dovuto compiere a 21 anni una scelta insomma piuttosto difficile, piuttosto adulta. Hai scelto di proseguire l'attività di tuo padre. Come ci si sente a 21 anni a raccogliere un testimone così, così importante, quando più spesso, no, di solito il percorso dei figli prevede quasi un tradimento, no, della tradizione dei padri o dei genitori, un allontanamento verso altre possibilità? Ti dico che io ho avuto la fortuna di avere questa passione che era molto collegata alla storia di mio papà, di mio nonno e di tutti, così prima che io non ho avuto la fortuna di conoscere. E quindi avere un sogno così che arriva in un momento in cui non hai tanto, cioè la scelta è giusta. Il volere è il sogno, quindi si può realizzare. È difficile, però finché si va avanti non è male. Perché tu sei stata di fatto in botteghe, in laboratorio con tuo papà per 8 mesi, poi lui improvvisamente è scomparso. Poco, vero? Leggevo un'intervista che dicevi: sono quasi arrabbiata con papà perché non mi ha insegnato tutto quello che poteva insegnarmi. Ah sì, ma davvero ce l'ho questa cosa, ancora ci penso. Maria, ma adesso che sei titolare o una delle titolari dell'azienda, diciamo, hai dovuto anche superare alcuni pregiudizi o alcune diffidenze in un'attività che poi, quantomeno nel luogo comune, è quasi vista come prevalentemente maschile? Sì, sì, lo è prevalentemente in realtà. Comunque non proprio. Sono stata fortunata di avere tutti i vecchi clienti di papà, o comunque non tutti ma tanti, che mi hanno dato fiducia, mi hanno dato degli incarichi di lavoro, dei lavori da portare a termine. E in quelle occasioni lì ti senti anche realizzato, ti senti molto più realizzato, perché si fidano di comunque una ragazza che di questo lavoro ancora non ne sa tanto, ma lo dico, sono sincera. Però quando alla fine venivano fuori dei lavori, caspita, lì contenti loro, tu ancora di più. E pensi al papi, che probabilmente sarebbe anche contento, si spera. E lo senti lì vicino a te, il papi, mentre lavori, mentre usi i suoi attrezzi, mentre usi il suo tavolo? Ogni tanto sì, sì. Non sempre, però in certi momenti sì. Maria, grazie davvero per aver condiviso con noi questa bella storia, che è una storia di vita. È grazie a voi. Assolutamente una storia di vita bellissima, e speriamo che il tuo sogno veramente si possa realizzare in toto. E dopo aver ascoltato Maria, adesso facciamo un salto a Gorgonzola, dove un'associazione di padri ha organizzato un'iniziativa molto particolare, The Walking Dead, una passeggiata collettiva che diventa un momento di confronto con papà. Andiamo a sentire cosa ci ha detto uno degli organizzatori di queste camminate, Francesco Lastilla. Gli abbiamo chiesto com'è andata la prima tappa. Padri Eterni. Benissimo, un entusiasmo totale, perché ovviamente in giro per Gorgonzola 20 papà con 22 bambini, eravamo una bella fiumana e la gente si chiedeva: ma cosa fanno tutti questi papà con i bambini? Ma che belli, i papà in giro! Quindi è andata molto bene, abbiamo avuto molte adesioni ed è quello che ci aspettavamo. Puntiamo a raggiungere, ad aumentare nei prossimi appuntamenti, ma è stato veramente bello. Papà e passeggino, è questa la... Assolutamente sì, 0-3 anni, The Walking Dead è un'idea che nasce insieme all'amministrazione comunale di Gorgonzola. Facciamo un gruppo di cammino per papà, un momento di critical mass, vogliamo farci vedere, abbiamo tutti uno zainettino con scritto The Walking Dead, bello visibile, e bambini da 0-3 anni, questa prima opportunità è per... quindi anche neopapà per molti partecipanti, quindi papà giovani, bambini 0-3 anni, passeggini, fasce, marsupi, qualsiasi mezzo di trasporto per bambini. Francesco, mamme bandite? Mamme bandite, qualcuna si è affacciata per vedere se, eccolo, i papà erano gestibili, se i bambini potevano stare, ma noi vogliamo fare proprio un percorso per far capire che non si preoccupano solo le mamme dei bambini, ma che se ne possono occupare anche i papà in maniera virtuosa, con delle competenze che tutti hanno. Abbiamo iniziato proprio il 19 ottobre chiedendo ai papà cosa sapevano fare per tirar fuori un po', per rompere un po' il ghiaccio, per tirar fuori la genitorialità, per essere padri è importante, non è un accessorio della famiglia, quindi. Ma poi anche per recuperare questa dimensione della lentezza, no? Del passeggiare insieme, del non avere fretta, mi auguro anche magari smartphone spenti. Tutto tranquillo, non è proprio una camminata, abbiamo subito detto a tutti, non è una corsa, non bisogna essere atleti, non bisogna venire in tuta, si viene per camminare, prima giornata noi facciamo più il brainstorming iniziale, buttiamo delle idee e poi si chiacchiera, in un'ora si fa anche un paio di chilometri, quindi giriamo un bel po', c'è una sosta, merenda alla fine con i bambini, quindi proprio prendersi del tempo, assolutamente. 200bpm.it è il sito per tutte le informazioni, l'associazione presieduta da Luca Cappello che con te, sì, ha ideato queste camminate, avete chiacchierato? Cosa avete fatto durante questa ora di cammino? Poi di cosa parlavate? Allora, ovviamente io e Luca eravamo un po' i mediatori, ma subito in secondo piano, non vogliamo essere dei professori durante queste camminate, ma lasciare proprio libera ispirazione. Noi abbiamo detto appunto il tema papà sa fare, da lì è partita una chiacchierata, ci sono conosciuti dei genitori, l'obiettivo è fare una rete tra i papà del territorio, in questo caso il nostro, quello di Provenzano della Martesana, provincia di Milano, però creare proprio una rete tra i papà e vedere un pochino di prendersi del tempo con i propri figli, perché ovviamente ci sono i bambini, non è che poi i papà abbandonano i bambini in un angolo e intanto chiacchierano, ci sono i bambini col passeggino, chi col marsupio, ma come lo porti, ma guarda un po', ma che bello, ma non ti conoscevo, quindi proprio prendersi del tempo. Fantastico, grazie davvero, complimenti per questa iniziativa. 200bpm.it. Dopo aver passeggiato con i papà, adesso ci prendiamo una breve pausa, le condizioni del meteo e poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola in questa prima puntata dell'anno dove stiamo riascoltando alcune delle storie più belle della stagione passata. Adesso andiamo a Bologna dove all'interno del Festival Teatrale 2030 è stato organizzato un laboratorio molto particolare che chiedeva agli attori di mettere in scena qualcosa insieme ai loro padri. Si è presentato un solo papà ed è qua con noi. Padri Eterni. Diamo il benvenuto a Giorgio Acchiardi. Ciao Giorgio. Ciao, grazie. Ciao Giorgio. Ti sei sentito solo lì, unico padre presente in scena? Ma per me è stata un'esperienza, tra virgolette, travolgente, nel senso che ero stato invitato da Susanna, mia figlia, con un messaggio vocale dove, con una gentilezza un po' eccessiva, no? Mi diceva, ah, sai, c'è... intanto mi diceva che mi ringraziava perché le avevo detto che bisognava cambiare le gomme e mettere le gomme invernali. Poi mi l'ha presa da lontano. Mi diceva che non dovevo preoccuparmi perché aveva lasciato la macchina in un posto imprecisato del nord-est Italia, ma che comunque non dovevo preoccuparmi. E poi mi diceva, ma sai, ci sarebbe un laboratorio a Bologna, l'occasione di conoscerci meglio, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi io sono andato, insomma, anche perché mi faceva piacere andarci, non capendo che in realtà il motivo recondito di Susanna era anche quello di farmi salire sul palco, cioè io che non ho mai avuto esperienza nel settore, perché lei l'attrice di famiglia, no, nel senso che l'attrice di famiglia, e insomma sono andato lì, tra l'altro ho conosciuto dei ragazzi tra i 20 e i 30 molto molto belli sia dentro che fuori, nel senso che non sono quelli che mi immaginavo, che sono solo attaccati al telefonino e non pensano perché sono sommersi da informazioni che cambiano continuamente, eccetera, sono magari anaffettivi, eccetera. Non è assolutamente vero, come io ho conosciuto delle persone che si pongono dei problemi, che si fanno delle domande, che pensano, che cercano ricercano insomma quello che è il rapporto con la famiglia, quindi con i genitori di fatto, insomma, quindi anche da questo punto di vista mi ha molto fatto piacere. Ma in particolare tu nel tuo caso che cosa hai scoperto recitando con tua figlia? Cioè nella finzione scenica si riesce davvero a vedere meglio a volte la verità? Ma per noi è stata una cosa così molto, anche perché è venuta fuori spontaneamente, anche perché i registi sono stati molto bravi a lasciarci mano libera, quindi noi, considerato anche con mia figlia il rapporto è spesso conflittuale eccetera, insomma anche noi sostanzialmente ci preparavamo mentre passeggiavamo per Bologna e facevamo finta, e quindi non si sapeva mai qual era la finzione, se parlavamo esatto. Se la finzione o esatto. E comunque insomma uno schema c'era, però di fatto noi quando io insomma mi ha costretto a salire, perché di fatto insomma gli altri proiettavano delle fotografie della famiglia eccetera, lei ha proiettato una fotografia dove al posto del mio viso aveva messo quello di Bruno Vespa, perché tutti dicevano fin da quando ero diciamo giovane che assomigliavo a Bruno Vespa. Allora al di là di tutto, insomma, ma io voglio essere io, anche se magari Bruno Vespa è mille volte meglio di me, ma insomma io sono io, quindi tu l'unica foto che metti è quella mia e Bruno Vespa al posto della mia faccia. Allora lì c'è stato una serie di battute eccetera, eccetera, insomma alla fine lei mi ha detto: guarda, io ho paura di recitare, io ho paura di stare sul palco, quindi tu devi venire su e devi darmi una mano, perché eccetera. Quindi si è creata una situazione paradossale, nel senso che insomma io sono andato sul palco e dovevo dare una mano a uno invece che avrebbe dovuto dare una mano a me sul palco, nel senso che io non ero insomma una cosa un po' così insomma vuol dire che la cosa ha funzionato, perché alla fine poi è questo, no? Se vuoi conoscerti meglio come figlio o come padre, lo stare insieme è sempre la strada migliore. E dopo essere andati a teatro, ora ci occupiamo di fantascienza. Sì, perché in un mondo lontano anni luce, disperso nella galassia, c'è un adolescente, un eroe che ha deciso di restituire lo smartphone al papà per disintossicarsi. Beh, è successo davvero ed è con noi Alessandro, il padre di questo ragazzo. Padri Eterni. Sei, cosa fai, dove vai, come mai, è da un'ora che ti sto chiamando, non lo so, ma con te non si sa mai perché, non sei mai dove stavi dicendo, ma cos'hai, ma cos'hai, ma cos'hai, perché non ti fidi mai, dove vuoi, dove vuoi, dove vuoi. Il panico con mio figlio adolescente questa settimana. So già. No. Ho preso il treno, sono partito direzione Roma e a un certo punto è squillato il cellulare che avevo in tasca. Non era il mio, era il suo. Mi sono sbagliato e sono partito col suo cellulare, il mio e il suo cellulare. Quindi si è trovato senza cellulare. Quindi veramente succede. Sì, si è scatenata subito un'operazione sul come recuperarlo, a chi darlo, come prenderlo, perché insomma gli avevo tolto uno strumento. Alla fine ridiamo e scherziamo spesso di questa cosa, che però è vitale per loro, no? Per i contatti, per WhatsApp, insomma per il loro mondo che conosciamo bene. E insomma, quindi mi ha fatto molto sorridere leggere questo articolo che abbiamo trovato su una testata online da bitonto.com. Il titolo era La storia ragazzino restituisce lo smartphone al papà. Basta, voglio disintossicarmi. Cioè un dodicenne. Io guarda, quando l'ho letta sono rimasto esterrefatto, perché nel mio mondo, nel mondo in cui viviamo, è più probabile vedere un figlio che restituisce il padre e si tiene lo smartphone. E con noi abbiamo il padre, da lui vogliamo capire appunto come ha vissuto quel momento. Diamo il benvenuto ad Alessandro. Ciao Alessandro. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a te, buona domenica. Sentirvi. Allora, non ci credevi? Non ci credevo affatto, assolutamente. Per me è stata una bellissima sorpresa. Tutto è accaduto domenica, sì? Domenica scorsa. All'improvviso mi sono ritrovato all'interno del mio zaino un telefonino impacchettato in una busta incelofanata, scocciata con quello scotch trasparente. Questo è un regalo per te. Cosa è successo? Voglio un po' disintossicarmi. Ma perché? Voglio stare un po' più libero. Sono rimasto di pietra. Immagino. Non ho capito più nulla. Ma tuo figlio ha 12 anni, da quanto aveva il cellulare? Dall'età di 7-8 anni, diciamo così, l'ha sempre avuto. L'ha sempre avuto e ne aveva un uso normale o un abuso? Come, insomma, tra un uso normale, un uso normale. Ok. Un uso normale, niente di più. Ma sai, poi l'abuso si fa presto, secondo me, a sconfinare nell'abuso nel momento in cui a volte non ci rendiamo nemmeno bene conto, nemmeno noi adulti, dell'uso che facciamo di questi strumenti, no? Porto una breve testimonianza personale. La settimana scorsa sono andato ad assistere a un saggio di danza di una delle mie bambine e, come tutti i genitori, ho fatto un filmino per riprenderla. E a un certo punto mi sono reso conto che io stavo guardando mia figlia attraverso questo monitor, ma non la stavo guardando davvero. Sì, esatto. Ma poi hai chiesto, Alessandro, a tuo figlio cosa voleva dire per lui disintossicarsi? Cos'era successo? Sì, perché lui voleva vivere un po' la vita. Mm-hmm. Diversamente da quella che ha vissuto sino a poco tempo fa. Diciamo che la sua vita è particolare, perché è quello che è accaduto, la restituzione del telefonino è stata una sinergia tra la forza familiare e la forza scolastica. Noi a casa usiamo ben poco il telefonino. Okay. A scuola, a maggior ragione, loro fanno una vita scolastica ben rigida. Arrivano alle 8, lasciano il telefonino all'interno del loro armadietto. Alle 16, anzi alle 17, lo riprendono. Quindi sono asettici da qualsiasi tipo di comunicazione con l'esterno in queste ore. Mm-hmm. Quindi ha capito che poteva stare senza telefono. Oggi è domenica, sono passate 2 settimane, non ha chiesto ancora il suo telefonino e ce l'ho ancora io nel mio zainetto. Ma ascolta, sono cambiate un po' le sue abitudini, nel senso che immagino che poi in questi mesi in cui c'era il cellulare, che ne so, per mettersi d'accordo con gli amici, magari ci si scambiava un messaggio, oppure c'era... È cambiato qualcosa nella sua quotidianità? Sì, certo che sono cambiate. Sono cambiate anche nella nostra famiglia. Per il semplice fatto, per rintracciarlo, adesso sarà sempre più difficile. Devo chiamare i suoi amici per vedere dove sta e viceversa, lui quando deve interfacciarsi con noi deve chiamare attraverso i telefoni dei suoi amici. Ma senti, un problema al contrario adesso. Alessandro, ma con questo suo esempio virtuoso vi ha contagiati in qualche modo? Sì. Diciamo sì che ha cambiato completamente la vita, perché lui adesso la sera, se prima restava un po' più di tempo sul telefonino, adesso approfitta di uscire con noi con il cane. Usciamo ogni sera. Dopo le 10 facciamo un giro in più. Invece prima preferiva stare in casa sul divano e guardare il suo telefonino, i classici youtuber. Ecco, però prima dicevi appunto, adesso quando voglio rintracciarlo devo chiamare i suoi amici, quindi in verità arriveremo al momento in cui tu insisterai affinché riprenda il cellulare, così. Purtroppo sì, purtroppo sì. È un equilibrio che dobbiamo trovare, sicuramente. Ma comunque, insomma, una bella storia, una storia controcorrente e una storia di totale consapevolezza. Comunque tuo figlio è molto maturo, ha capito che quella cosa per lui era un fastidio. Sì, infatti l'ha chiuso, non ne vuole più sapere. Mi ha sorpreso, assolutamente. Mi ha lasciato senza parole. Davvero una bella testimonianza quella di Alessandro, che ringraziamo per aver condiviso con noi questa sua esperienza. Adesso ci fermiamo al traffico, poi ancora qua con questa puntata speciale dei Padri Eterni. Promo 24. Appuntamento al GIC, Giornate Italiane del Calcestruzzo, Italian Concrete Days, l'unica mostra italiana interamente dedicata a macchine, attrezzature, prodotti e tecnologie per l'industria del calcestruzzo, la demolizione, il ripristino e la riqualificazione delle strutture in cemento armato, con le sue aree tematiche Agretexpo, dedicata al trattamento e al riciclaggio degli inerti, Compavitexpo, dedicata alle pavimentazioni e ai massetti, e Idrexpo, riservata al taglio e alla demolizione del calcestruzzo. Alla terza edizione del GIC è anche previsto un ricco programma di convegni con relatori di fama internazionale. A Piacenza Expo dal 29 al 31 ottobre 2020. Per maggiori informazioni, gic-expo.it. padri eterni. Eccoci tornati con il meglio dei padri eterni. Abbiamo voluto riprendere una storia molto triste, che deve essere da monito per il futuro, perché lo sport non dovrebbe mai significare violenza e odio. Una domenica di 40 anni fa, durante un derby tra le due squadre romane, partì un razzo da una delle curve che colpì Vincenzo Paparelli, uccidendolo. Noi abbiamo intervistato Gabriele, suo figlio, cresciuto a Roma con una bomboletta spray sempre a portata di mano, per cancellare le scritte vergognose che di tanto in tanto comparivano contro suo padre. Padri eterni. Immagino, non so, ogni domenica te, cioè, ti riporta quella domenica? Ogni domenica è un battito di cuore che dà una pulsazione in più. Ogni domenica spero che fili tutto liscio, almeno in cuor mio. Sì, immagino. Sì, sì. Tu eri un bambino, siamo praticamente coetanei, e sai, però insomma, non voglio chiedere il ricordo di quella domenica. Questa frase, però, la mia vita cancellare scritte indegne. Il tuo essere figlio è stato girare per Roma a cercare scritte di tifosi contro, no? Che insultando tuo padre, insultando la memoria di tuo padre, pensano di insultare un'intera tifoseria, e il tuo rendere onore a tuo padre è stato cancellare quelle scritte. Sì, purtroppo non sapevano che dietro un coro, un semplice coro cantato allo stadio o una scritta su un muro, dietro c'era una famiglia che soffriva anche tanto. Io purtroppo ho vissuto praticamente la maggior parte della mia vita con una bomboletta di spray o sotto il sellino del motorino o in macchina, perché purtroppo era veramente brutto per me, ma era un dramma se quella scritta la vedeva mia madre. Se la vedeva mia madre, finiva la giornata, chiudeva le tapparelle, era finita la giornata, non usciva più, piangeva. Quindi per me è stato un modo di proteggere più che potevo mia madre, e da lì ho incominciato a cancellarle io di pugno mio. Poi oggi, purtroppo, l'ultima è di pochi mesi fa. Oggi, grazie ai social, riesco a controllare un po' tutta Roma, quindi appena un imbecille, consentitemi il termine, si ripermette di scrivere un'altra cosa, un'altra frase sbagliata su mio papà, fortunatamente col tantam dei social riusciamo subito a toglierla, ma nel giro di neanche 24 ore. Gabriele, tu quando ti è stato portato via tuo padre avevi solo 8 anni, tra l'altro quella domenica saresti dovuto andare anche tu allo stadio, ma tua madre si è opposta. Ti chiedo, che cosa significa essere da romano il figlio di Vincenzo Paparelli, che ricordiamolo è la seconda vittima di tifo dovuta al tifo calcistico nel nostro paese, ma certamente la più nota. Com'è stato crescere a Roma con questa responsabilità? Beh, non è stato facile sicuramente, perché io mi descrivo sempre come una persona tristemente famosa, perché a Roma vuoi non vuoi mi conoscono veramente in tanti. È stata dura perché è un cognome che da adolescente spesso e volentieri mi capitava di sentire cori alle feste, per dire, dei miei amici che non sapevano che ero lì presente, e mi sentivo partire un coro su mio padre, quindi ti lascio immaginare. Addirittura a scuola mi sono ritrovato delle scritte sul banco, quindi è stato veramente un compito duro, e io ho cercato con tutto me stesso di fare quel che potevo, un po' cancellando, un po' intervenendo, andando in trasmissioni, dove ovunque mi avessero potuto dare un po' di voce per far capire che era tutto sbagliato, che come si stavano comportando era sbagliato. È stato veramente brutto tutti questi anni subire questo tipo di insulti, perché poi erano proprio insulti veri e propri. Gabriele, grazie davvero per aver condiviso con noi questa tua storia, no? Questa tua quotidianità. Tu da un po' hai deciso di non mettere più piede all'Olimpico. So che tua figlia invece è un'appassionata di calcio, vero? Mia figlia è lazialissima, ha avuto ho sentito dell'orgoglio. Sì, poi adesso ha visto che da un po' di tempo stanno mettendo una bandiera con il volto di mio padre fissa allo stadio, quindi lei quando va quelle poche volte col nonno allo stadio torna e mi dice: papà c'era la bandiera di nonno Vincenzo. E per me devo dire che è un motivo d'orgoglio veramente forte. Ancora la facciamo vivere con questo spirito di serenità da bambina e speriamo che continui così e che non si trova mai a sentire o a leggere una scritta brutta sul nonno. Cerco di proteggerla il più possibile. Grazie davvero. No, grazie a voi per aver ricordato mio papà, sicuramente vi ringrazierà da lassù. Ciao, grazie. E questo era il racconto triste, ma anche pieno di forza, di coraggio, di Gabriele Papparelli. Siamo in chiusura di questa puntata speciale dei Padri Eterni, dedicata al meglio delle nostre interviste. Vogliamo finire in bellezza con la chiacchierata che abbiamo fatto insieme a Massimo Manca, figlio del primo impresario musicale a portare Vasco Rossi in Sardegna, dove ha scritto Vita Spericolata. Padri Eterni. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Ciao Massimo. Ciao, buongiorno. Cosa faceva tuo padre con Vasco Rossi? Mio padre, il suo lavoro era impresario musicale, quindi portava i cantanti in giro per la Sardegna. Mm-hmm. Ne ha portato tanti, ovviamente, altri a Vasco, Celentano, Fiorella Mannuia, i Pui, Nomadi, tutti questi cantanti. Però quella giornata, cui... quel tour, esatto, se lo ricordi in maniera particolare, vero? Sì, l'82, sì, il tour va dal massimo. Fece 4 tappe in Sardegna, Porto Torres, Olbia e tra cui a Semini, in provincia di Cagliari, dove poi scrisse La notte Vita Spericolata. Il concerto fu annullato per pioggia e la notte lui in macchina Vasco scrisse Vita Spericolata. E quindi, come dire, Vita Spericolata, che noi abbiamo sempre interpretato come una canzone quasi esistenziale, si riferisce in realtà all'imprevisto di una data saltata. Sì, sì, esatto. Lui lo ricorda sempre nei vari libri, varie biografie. E diceva che aveva scritta in uno stadio vicino a Cagliari, però non ricordava mai dove, ovviamente, sono passati tanti anni. Non si ricordava, e io in un incontro a Chia in provincia di Cagliari io gliel'ho ricordato questo. Infatti perché oggi il tuo papà non c'è più, però quest'estate sì. Vasco Rossi è tornato in Sardegna e sì. Tu l'hai aspettato con quel contratto firmato da lui nell'82 in mano? Sì, sapevo che alloggiava in un albergo vicino a Cagliari tramite un amico perché lavorava in quell'albergo e quindi sapevo più o meno gli orari in cui usciva ad allenarsi la mattina, come si è solito fare. E quindi ho detto, vabbè, voglio incontrarli, un sogno lungo una vita, visto che lo seguo da tanti anni, ho fatto più di 20 concerti. Quindi ho detto, prima di uscire di casa porto questo contratto, voglio vedere se riesco a farglielo vedere, fargli ricordare qualcosa. E così l'ho fatto. Infatti, quando ci siamo incontrati, gli ho detto, Vasco, ti rubo 2 minuti, anche perché poi eravamo... io e lui è la sua guardia del corpo, quindi pochi intimi, è una cosa spettacolare, neanche ci credevo. Ma quindi quel bambino è riuscito a incontrare Vasco molti anni dopo. Ma sì. Che cosa ha detto Vasco quando gli hai mostrato quel contratto? Come l'ha visto è rimasto sbalordito, perché non ci credeva. Ha fatto, adesso ecco, tutto torna a quello che io raccontavo nei libri. E infatti poi ha voluto che io rilasciassi le copie di quel contratto e vari documenti che ci avevo dell'anno, capito? E infatti poi dopo qualche minuto ha pubblicato la foto con me, il contratto, sul suo profilo Instagram e le sue storie. Sono rimasto... non ci credevo. Massimo, ma tutte le volte che ascolti Vita Spericolata il tuo ricordo torna a papà? Sì, beh, a parte quello, ma poi una canzone particolare di Vasco e anche che canta De Gregori in generale, che mio padre amava tanto. Questa è la musica, no? Che comunque unisce, sì. Che rafforza, che insomma trasporta con sé emozioni. Sarà felice di questo mio padre, sicuramente sarà fiero. E grazie ancora a Massimo Manca che ci ha regalato una storia molto bella che dimostra quanto sia importante cercare di realizzare i propri sogni con tutte le forze disponibili. Siamo arrivati alla fine di questa puntata speciale dei Padri Eterni, una raccolta delle nostre interviste e delle storie più belle. Noi come sempre ci risentiamo domenica prossima alle 11. Ancora un saluto da Federico Taddia e Matteo Bussola.